Noi sembriamo uguali e so per te. Amo tutto ciò che piace anche a te, ma vorrei fossi il vero te. Oh oh oh, oh sei speciale, scoprirai perché. Au! Oh, oh, oh e so che saremo amici, unici insieme. Ah, oh, dei nuovi amici, unici insieme. Non scorderò l'amicizia tra noi perché so che saremo amici, unici insieme.